No. Ho capito che lei oggi gode come un pazzo a queste. Ma come mai? Dica la verità, quanto era tanto che non godeva così, dica, in tutti i sensi. Dica, dica. È abbastanza vero, eh? Devo dire. Cioè, è meglio di un orgasmo, mi dica, è meglio di un orgasmo. Sì. Come no, sì? No. Sì. Molto di più, perché erano anni che non godevo così. E dura moltissimo. Il fatto di vedere, per esempio, tutti quelli che avevano già impostato la loro vita, la loro carriera, le loro speranze. Se la sono presa nel... Ecco, no, come si dice, a Eton, no, se la sono presa e li vedi sedere, tutti preoccupati. Ma chi è più preoccupato? Che ce n'è tanti. No, però basta facciamo andare, i nomi. Il primo è sempre preoccupato. Ma basta leggere, Cicchitto, ad esempio. Ma basta leggere le dichiarazioni, sì. No, basta tirarle fuori adesso con internet, si tirano fuori con grande facilità. Sì. E basta vedere tutti quelli che esultavano. Sembrano tutti contenti dell'ascesa in campo. Adesso sì. Sì. Perché pensavano di aver seppellito il nonno, no? Perché pensavano che non ci fosse più quel problema. Perché con Berlusconi, in realtà con Berlusconi che torna, tutti a casa, molti a casa. No, non spero di sì, qualcuno. Spero. Insomma, ma chi, ad c'è esempio? Un po', chi? Un po', quelli che avevano... guarda, neanche se mi torturi farò un nome. Sì. E perché? Ma tutti quelli che, ormai si erano impostati, avevano queste relazioni, amicizie quelli che hanno in mano il partito, senza Berlusconi. Quelli che hanno in mano il partito. Quelli che, di più, quelli che speravano di averlo domani. Scusi un attimo.